diciamo, noi torniamo in voce, come vi abbiamo detto, noi andiamo a riascoltare, insomma, sì, questi brevi audio, sono un totale, credo, 6 minuti spezzettati, e quindi noi vi faremo sentire un minuto, ve lo traduciamo così possiate, che possiate capire bene, con appunto l'avvocata di Mattia Giordano. Lei parlerà di una data, noi poi vi parleremo, insomma, vi spiegheremo che vi faremo, insomma, che è stata rimandata, ma insomma, questo io ve lo dico anche perché, come vi dicevamo, e lo troverete veramente tra breve sul blog della Rete Internazionale in Difesa del Popolo Mapuche, stiamo aprendo un po' una campagna economica per sostenere i prigionieri e le prigioniere. Questo significa che stiamo aprendo un conto dove poi vi chiederemo di versare quello che volete, perché ahimè l'unica cosa che in questa situazione di cose presenti, in cui viaggiare è più difficile di un mese fa, sicuramente di 2 settimane fa, non ci si capisce quando, ma settimane, sicuramente abbiamo capito che questo è il problema più grande, soprattutto perché cominciano a rimanere proprio gli ultimi compagni e le compagne che hanno più di tutti questo tipo di difficoltà. Quindi io direi che forse potremmo partire con questi audio che, come vi dicevo, ci spiegano un po' qual è la situazione di Mattia Giordano, quali sono le accuse a lui mosse, che cosa dice l'accusa, e insomma capiremo un pochino la sua situazione. Dai, andiamo a ascoltare. Hola compañeros y compañeras, les habla Betsabe Carrasco, abogada de Defensa Popular y actualmente abogada defensora de Matías Berrocal Terrones, también conocido como Giordano, quien es un compañero preso político que se encuentra detenido actualmente en la cárcel de Santiago 1 en la comuna de Santiago, en Chile. El día próximo 7 de enero tiene programada la audiencia de preparación de juicio oral, que es una audiencia que tiene por objetivo revisar y conocer las pruebas que va a presentar la Fiscalía y el Ministerio Público en contra de él. Y en esa audiencia el compañero debe presentarse de manera virtual y también tiene que presentarse esta defensora en conjunto. Allora, come vi dicevo, dunque l'avvocatessa appunto di Mattia Berrocal, conosciuto come Mattia Giordano, che appunto è prigioniero nel carcere di Santiago 1, nella comuna di Santiago, quindi nella città di Santiago, e ci dice appunto che Mattia avrà la sua prima udienza del giudizio orale, che significa il 7, che invece è stata posticipata al 9, quindi non domani. Il quisio oral, diciamo, è quella prima udienza dove in forma oratoria, quindi in forma orale, tutte le parti spiegano, intanto l'accusa e quindi il procuratore spiegano quali sono i motivi per cui hanno denunciato Mattias, quali sono le prove che hanno lì, e lo stesso faranno Mattias in modo virtuale, quindi si connetterà da remoto e la sua avvocatessa dovranno anche essere lì a testimoniare e spiegare quali sono le motivazioni e la difesa. Udienza di preparazione, udienza di presentazione, quindi direi anche i capi accusatori, non solo delle prove. Hacer presente que en esta causa el fiscal Miguel Orellana Pérez, quien es el fiscal adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía de la Región Metropolitana Oriente de la comuna de la ciudad de Santiago de la Región Metropolitana, le imputa a Mattias haber realizado diversos hechos que comienzan desde principios del año 2020 y que se extienden hasta el día 12 de octubre del año 2020, en los cuales Mattias habría tenido participación en calidad de autor y también de colaborador, y particularmente por delitos que dicen relación con hechos realizados en el contexto de manifestaciones públicas, de protestas sociales ocurridos en la comuna de Peñalolén. Dentro de estos delitos que se le acusa, se le acusa en primer lugar de participar de una asociación ilícita en conjunto con otras personas, casi todos varones, solamente una mujer, que tenía por objetivo atacar de manera reiterada con diversos elementos contundentes, armas de fuego y elementos incendiarios de tipo molotov a la comisaría que se encuentra en la comuna de Peñarolé, particularmente la subcomisaría de Peñarolé. Lo que eso es uno de los... Vabbè, farei una pausa, no? Per spiegare un attimo che che cosa ci dice. Continuava a dirci che Miguel Orellana Pérez, no? Il procuratore della regione metropolitana di Santiago, diciamo, alla fine l'imputava a Matias fatti accaduti tra inizio del 2020 fino a ottobre del 2020, quello stesso anno, e lo accusava di essere autore ma anche collaboratore di diversi reati nel contesto di manifestazione pubblica, eccetera eccetera. E di cosa lo accusava, diciamo, qual era un capo d'accusa in particolare? Partecipare di un'associazione illecita per attaccare di forma sistematica con diverse armi anche da fuoco, ci spiega l'avvocata. Sì, o comunque con bottiglie molotov, così, un'associazione illecita con un altro gruppo di persone, tutti uomini, tranne una donna. Che avevano come scopo, secondo di nuovo l'accusa del procuratore, di attaccare questa commissaria, questo commissariato della comuna di Peñalolén. Sì, proprio così. Questo quindi ci spiegava rispetto al, diciamo, il capo d'accusa. Eso es uno de los principales delitos por el cual se le acusa, y también se le acusa de manipular, facilitar, lanzar bombas incendiarias de tipo molotov al cuartel, y asimismo también se le acusa de disparar de manera injustificada también a esta subcomisaría, y también de dañar con el ánimo homicida, es decir, con un homicidio frustrado, a un funcionario policial de esta misma comisaría. Marò. Sí, non poco. E chi sei, no? Non poco. No, non poco, dopodiché, appunto, vabbè. Quindi, diciamo che le accuse principali che gli vengono mosse sono di costruzione, facilitazione e lancio, quindi di aiutare a costruire, insegnare, credo, e lanciare bombo molotov sotto, appunto, la commissariato. Sì. E pure sparare. Sì, però io credo che sì, pure sparare, perché mentre prima parlano di incendio e bombe molotov, poi di botto si parla di sparare, infatti, perché nello sparare c'è anche l'omicidio frustrato, cioè il tentato omicidio, e quindi lì so dolori, il tentato omicidio di un agente della suddetta commissaria. Continuiamo ad ascoltare quindi. Esta es una investigación de larga data que culmina con la detención de Matías en el mes de octubre del año 2020. Sin embargo, sabíamos que la investigación se desarrolló durante todo prácticamente el año 2020, y los primeros días del mes de diciembre de 2021 la investigación se cierra, y es donde la fiscalía ofrece diversa prueba. Dentro de ella se encuentran 65 testigos, casi todos funcionarios policiales, 27 informes periciales que tienen por objetivo acreditar la participación de Matías Giordano, y aparte de eso también una gran cantidad de registros audiovisuales, aproximadamente 150 registros audiovisuales que fueron captados por la policía. Esto consiste en grabaciones de celular, cámaras de seguridad, dron y otros elementos audiovisuales que fueron incorporados como prueba también a este juicio. Es decir, es un juicio bastante complejo por la gran cantidad de pruebas que solicita y que pide, y que tiene el Ministerio Público para acreditar la participación de Matías. Allora, diciamo che qua capiamo che qual è il costrutto, no? Perché appunto poi sappiamo che Mattias in tutto ciò è in carcere, quindi un'indagine che viene che è iniziata un sacco di tempo fa, è iniziata nel è durata per tutto il 2020, finché il 9 dicembre del 2021 vengono così tirati fuori gli atti, credo, no? Di sono chiusa, almeno l'indagine, l'avvocata ci parla, esatto, di quelli che è stata chiusa a dicembre del 2021, quindi... è stata chiusa e vengono finalmente battuti sul tavolo scatole immagine. Stiamo perché parlando di un anno e mezzo almeno di indagine. Sì, esatto, di solo di indagine. Almeno. Quindi escono fuori 65 testimonianze, tutti di Carabineros, appartenenti al corpo proprio, tutti del corpo dei Carabineros, che non è mai 27 informi, diciamo, informi, relazioni audiovisuali. Perizie, sì, scusate. 27 relazioni di diverse perizie e dopo sì una quantità infinita di registro audiovisuale, droni, quindi significa cellulari, droni, telecamere, registrazioni, eccetera eccetera. Questo fa sì che a parte il fatto che organizzare la difesa da carcerati non è proprio semplice, e questo fa sì che la difesa debba tirare su un lavoro mostruoso. A perizia bisogna rispondere con controperizia, il solo volume delle prove che loro dicono di avere giustamente, anche se diciamo che 60 poliziotti insomma è come dici no è come dire, cioè, fa ridere. Scusate, ma veramente porto tutta la squadra a difesa. No, vabbè, sì, fa ridere, fa piangere, fa ridere a sentirlo, poi fa riflettere, fa piangere, poi fa incazzare, perché qua parliamo di un Cile antifascista quando il corpo dei Carabineros dal pinoscettismo non è mai stato ripulito da merda fascista che ci si trova dentro. Motivo per cui dobbiamo un po' fare attenzione a credere a certe, no? A certe così ami che ci vengono tirati e a certe esche che ci obnubilano un po' la ragione, no? Perché cioè, Cast l'abbia stato tirato dalla Lupe d'Arpea, ma è uno. Sì, appunto, e rappresenta tutto ciò che c'è dietro, come per esempio, dicevo, questo 65 testimonianze appartenente tutte a forse sì l'istituzione che c'ha, diciamo, che rappresenta un corpo chiuso come nessun'altra veramente in Cile, per non solo la storia ma anche per i privilegi, no, che attraverso la storia ha avuto questa istituzione repressiva come Carabineros. Per darvi un esempio, il sistema di pensione che c'ha Carabineros, sì, diverso al dai resto dei mortali cileni e cilene. Quindi andiamo a sentire l'ultimo audio e poi torniamo chiaramente a commentarli. Dentro de del documento donde se ofrecen las pruebas, que se denomina acusación, se encuentra también la condena que le solicita la fiscalía por todos estos delitos. Particularmente le solicita 5 años y un día por el delito de participar en esta asociación ilícita. Le pide 12 años por el delito frustrado de homicidio en contra de carabineros en servicio, que es un delito sumamente grave. Le pide 8 años de presidio por lanzar bombas incendiarias de la ley de control de armas, ya de carácter reiterado. Se le pide 5 años y un día como autor del delito de disparo injustificado del artículo 14D, también de la ley de control de armas. Y también se le piden 800 días de presidio menor como autor del delito de posesión o tenencia ilegal de municiones, también de la ley de control de armas, y 800 días también como posible autor del delito de lanzar a personas o vehículos que se encontraran en la vía pública objetos contundentes. Madonna mia, ha fatto un po' una somma che fa il totale, come si dice a Roma. Allora diciamo che il totale di anni che gli viene chiesto, che sono circa una trentina, regà. Sì, nella confusione del giovedì scorso, devo dire... non l'avevi fatta sta sì, somma. Sì, no, non avevo fatto bene questo conto ed ero rimasto, diciamo, con le ultime cifre, con gli 800 e gli 800. Ma stiamo parlando di... 5 anni e un giorno, scusate. Per partecipare di questa... associazione supposta, illecita. Sì. 12 anni per l'omicidio frustrato del poliziotto. 8 anni per lanciare le bombe Molotov. 5 anni e un giorno appunto per lo, penso per aver sparato, sì, per effettivamente gestire, diciamo, per gestire queste armi, questi artefatti incendiari, alla legge del controllo delle armi. Per questo ricordiamoci questa ley de control de armas, perché io credo che la ley de control de armas, così come la ley de seguridad nacional, sono, sì, qualcosa che sentiremo rinominare quando parleremo dell'indulto. Ancora 800 giorni pure per avere le munizioni, no? Sempre per aver, solo per possederle, sì. 800 giorni e altri 800 giorni per aver, secondo loro, lanciato un veicolo, essere passati ad alta velocità con un veicolo sulla via pubblica, mi sembra, per aver messo a rischio. Sì, non so se ha detto quello. Oppure no, lanciare cose dal veicolo dalla via pubblica, lanciare cose dalla macchina verso questo commissariato. Quindi sono 800 giorni più 800 giorni più 5 anni più 8 anni più 12 anni più 5 anni. Sì, fatevi il conto, anni. Io non lo voglio fare. Sono 33 questa anni. È la condanna già richiesta, diciamo, da parte del procuratore nella presentazione, diciamo, in questa prima udienza, dove giustamente si presentano orale, dove si presentano i capi d'accusa e nello stesso documento giustamente anche la condanna. Stiamo parlando, a me mi si rompe un po' la voce, perché poi io Mattias adesso un po' lo conosco il suo viso, insomma è veramente un giovanissimissimissimissimo con un cervello avantissimo, insomma Mattias è pienamente cosciente di che cosa ha fatto. L'audio con cui, insomma, che abbiamo ascoltato insieme a Re Bibbia e che sta sul nostro sito, ce lo dice chiaramente. Non mi sento di dover chiedere scusa di niente. Lui ci ripete proprio quelle che erano le parole d'ordine della rivolta. Io non mi sento di chiedere scusa di niente, perché ero in piazza per reclamare i miei diritti in un paese che non ci dà niente. Eccoci. Questo è il delitto. E poi, quando il popolo si rivolta, chi decide cosa è giusto e cosa no? La definizione della rabbia, di quello che tu hai vissuto in 20 anni di vita, il rigurgito di odio di quella società e di questi ragazzi, che è più quello che hanno vissuto chiusi nelle istituzioni che li dovevano tutelare che liberi e con le possibilità di sognare. Quindi io non perderei altri minuti a commentare una cosa che credo si commenti da sola nella violenza solo di quello, sì, che chiede, proprio sempre una violenza devastante di quello che chiede. Questo ultimo audio con le richieste e gli anni, devo dire, insomma, ecco, no? Sì, una violenza devastante da parte dello Stato che si è accanito sempre, sì, contro la vita di Mattias. Per questo dicevamo un caso particolare, perché rappresenta, o può, credo, probabilmente è molto simbolico, ragazzi. Esatto, di nuovo, un ragazzo istituzionalizzato fin da bambino. All'interno di istituzioni che non sono, e il che paradiso, comunque ha vissuto l'abbandono di una società che, appunto, se tu sei povero sono affari tuoi, è un problema tuo e che devi arrangiare. L'unica proposta di fronte a quell'abbandono è continuare a essere o a vivere istituzionalizzato, forse nella peggiore istituzione, o sapere che tanto io comunque stato mi devo lavare la faccia a qualcuno, no? Non ci ricorda una storia già vista? Qualcuno in galera per quella storia ce la devo mettere, fossero pure 10. Fossero pure 10, e chi saranno questi 10? Saranno gli ultimi, saranno i meno, quelli che hanno meno ego, quelli che hanno meno reti, quelli che hanno meno compagni, quelli che hanno meno famiglia, quelli che hanno meno soldi, quelli che hanno meno di tutto, perché per lo Stato è più facile e potrà mettersi la medaglia per dire che sono stati puniti. Sì, io mi chiedo a volte il perché di una logica di questo tipo, no, tra coloro che si vedono rappresentati politicamente dalla destra, c'è poco da parlare con quelli, o è più facile, più riconoscibile, ma anche tra i chiamati progressisti, qual è la logica giustamente di dire no, però dobbiamo vedere, no? Caso per caso, qual è il temore che a lasciare per esempio liberi a persone che forse hanno commesso qualche reato contro la proprietà privata, cioè, qual è veramente il rischio? Perché io ti posso dire, credo, nella mia interpretazione, nella nostra, perché credo che anche sia condivisa, qual è il rischio di fare quello, ed è propriamente questo: lavarsi le mani, lasciare indietro delle persone, farle pagare a pochi o poche, ovviamente una situazione così, che per te il discorso è chiuso, generale, già. Significa non capire giustamente la logica, la natura e come si svolge un processo come quello della rivolta in Cile a partire dal 2019. Io credo che dire o cominciare a vedere no, però dobbiamo studiare, vedere caso per caso, non sia cosa, è vero, sì, vedremo come, niente, credo che significa questo. Dall'altra parte può significare cosa? Niente, qual è il problema di nuovo? Ah no, perché ha rotto una vetrina, ha lanciato, cioè non capiamo cosa significa una questione come quella del Cile, credo, se ancora la pensiamo così. Ci abbiamo tra poco una comunicazione? Allora sì, perché con Geraldine adesso commenteremo un po' quello che sarà l'indulto, o comunque questa, no, non sarà. Chissà se sarà e chissà se ci piacerà, pure se dovrebbe essere. Lo scopriremo tra poco. Io intanto metterei una canzone che insomma mi è stata richiesta perché mi devo far perdonare. La vida que ha germinado en la sombra, soy la miseria escondida bajo la alfombra, soy el secreto que grita que no lo escondan, soy el que nadie mira, soy el que nadie nombra, yo soy el pobre, el flight al que todos escupen, al que persiguen los guardias en el puto súper, soy al que llamaron del maldito hospital una semana después de morir por no tener cómo pagar, soy cada abuelito olvidado que se ha suicidado, desesperado porque no ha llegado a fin de mes, soy cada madre agobiada que se ha endeudado con el supermercado para que sus hijos tengan que comer. Soy cada niño no deseado que han abandonado y en el infierno del cename tuvo que crecer. Soy el que abrió los ojos y a balazos lo cegaron. Soy el que dio sus ojos para que tú puedas ver. Si no dan el tiempo, el silencio nunca me va a aparecer. Si no dan el tiempo, la mentira y su pacar tú van a ver. Escúchame hermano, voy a donde estés. Soy la rabia, el secreto dormía mientras el vago me golpeaba. Soy el llanto crudo que soltaba mi vana cuando decidió partir porque esta vida no es sana. Todavía me llama y vuelo. Soy la plaza sin pasto con la calle rota, la población sin un árbol cuando el sol azota. Yo soy la cancha sin arcos donde el niño nota que tiene solo un futuro y depende de una pelota. Soy el que vive con el mínimo y suda la gota, que viaja horas en una micro de pie apretado. Yo soy el allegado que llora cansado de perseguir la puta pesadilla de la casa propia. Yo soy el segregado, el puma sin educación, al que mandaste de vuelta a su sucia población, al que miras menos el muerto de hambre, al que trataste de roto conche tu madre. Soy el que vio morir amigos en manos de narcos, el que pidió un motivo para no drogarse tanto, el que se dijo que consigo con salir de cuarto y sin embargo sigue convencido de que vale si no algo. El tiempo, el silencio nunca me va a aparecer. Si no dan el tiempo, la mentira y su bacán tú van a ver. Escúchame hermano, voy a donde esté. Soy la rabia convertida en rebeldía. Soy el dolor que por debajo a todos nos unía. Soy la empatía que sonría la alegría cuando vuelve a encontrarse tu viva mirada con la mía. Soy el que tiene su cultura arraigada en la tierra, el que flamea con orgullo su propia bandera, el que pelea por lo justo y ahora se rebela contra un puto presidente que nos declaró la guerra. Soy el primera línea que protege como fiera a sus hermanos hasta que vivir valga la pena. Con una piedra y un maldito escudo de madera, hoy me muero en Baquedano. Allora, io così, giusto per per risparmiare un po' i minuti, perché ahimè il tempo va sempre di corsa. Intanto Geri, mi senti? Sì, ti sento. Perfetto. Allora, noi insomma abbiamo parlato di Mattias, non lo so ci hai sentito, intanto tu grazie che ci hai fatto arrivare questi audio e indubbiamente ultimamente stiamo focalizzando su di lui perché abbiamo bisogno insomma di fare eco alla sua storia. E io insomma insieme a te le chiedo mandare un saluto gigante perché ha dentro sicuramente vivir no è simple, non è facile sto lo decimos enseguida y a veces pasan cosas afuera también pesadas. Yo te quiero mandar un abrazo gigante porque me imagino que estar ahí encerrado sin poder, sabiendo lo que pasa afuera y sin poder hacer nada, es más duro de lo duro que ya es estar ahí preso. Así que te quiero mandar un abrazo gigante, Matías. Hoy mucha gente no está escuchando, está conociendo tu historia. Así que aguanta, muchacho, no te olvidamos, te hacemos fuerza y acá estamos para ti. Ok, niente, questa era una piccola parentesi di saluti che vogliamo fare a Mattias. Allora Geraldine, io ti faccio prendere fiato un attimo, perché insomma non è sempre semplice per chi è profondamente umano poi gestire queste cose a cuor leggero. Quindi quello che ti vorrei chiedere innanzitutto è, così, so che tu hai fatto un grosso lavoro per districare questa questione indulto. Allora io ti vorrei chiedere un po' di cosa stiamo parlando quando si sente parlare di indulto per i prigionieri e le prigioniere della rivolta. Compañera, te sento malissimo adesso, non lo so perché. L'hai sentita la mia domanda, spero. No, perché se sento malissimo, se corta a momenti. Allora, io ti volevo chiedere... Adesso sì, grazie, ecco, così, con la voce fortissima. Ok, non tocchiamo lì, così sappiamo che non si tocca più niente. Come vedete, i potenti mezzi di Onda Rossa continuano a essere potenti. Quello che io ti chiedevo è, so che tu hai fatto un grosso lavoro rispetto a, diciamo, a quello che si sente parlare di indulto. Allora io ti chiedo, finalmente credo che possiamo spiegare, quando parliamo di indulto per i prigionieri politici della rivolta, di che cosa stiamo parlando? Oh, va bene, sì, io ho cercato di fare un piccolo riassunto, di informarmi in questi giorni, e lo dico anche per chiarire a maniera politica personale, che lo faccio a modo di informazione, perché io personalmente, politicamente, sulla legge di indulto non mi afferro e non ci credo, sinceramente, va bene? Come strumento di libertà per i prigionieri e le prigioniere della rivolta in questo caso. Più che altro lo faccio a modo di informazione, perché è una tematica che si sta svolgendo in Cile, soprattutto da parte delle famiglie e dei familiari dei prigionieri e delle prigioniere politici e politiche in Cile. Anche perché in questi giorni, dopo che ci sono state le elezioni, mi sono accorta che gran parte del popolo cileno, soprattutto chi ha un detenuto politico o una detenuta politica della rivolta, sta facendo un grosso e grande appello a questo nuovo presidente, tra virgolette, come è Gabriel Boric, no? Dimenticando un po', come dicevi tu prima, che non è che Boric alza la mano, apre la bocca e vengono tutti e tutte liberati e liberate, che sarebbe ovviamente quello che ci aspettiamo tutti e tutte. Perché tutto questo deve avere una procedura, che è quella purtroppo della legge, no? Che passa attraverso il Congresso nazionale. E quindi in questi giorni sono andata a vedere che è venuto fuori, è stato pubblicato un'analisi di catasto di persone, di detenuti e detenute che dovrebbero essere avvantaggiati per questo progetto legge sull'indulto generale e senza condizioni, che stanno soprattutto seguendo alcuni gruppi collettivi di familiari e di famiglie e di prigionieri e le prigioniere della rivolta in Cile. Allora, ricordare che questo progetto è entrato nel Congresso Nazionale Cileno a dicembre 2020, quindi parliamo che più di un anno che si aspetta una risposta o un avanzo di questo progetto, che purtroppo, per chi ci crede e aspetta sulla speranza, una parola che io proprio non condivido, la speranza davanti al diritto della libertà, continua a essere rimandato per il Congresso. E questo catasto cosa dice? Che ci sono ancora in Cile, ci sono 1048 persone coinvolte in queste situazioni, che hanno relazione con la rivolta sociale del 2019, e di cui fino ad oggi è stato possibile revisare i casi di 835 persone su queste 1048. che corrisponde all'80% delle persone coinvolte per delitti durante la rivolta. Queste persone coinvolte, detenuti, si trovano maggioritariamente, 62%, nelle carceri di Santiago, che è capitale del Cile, no? Allora, sono considerati come delitti con l'obiettivo che siano indultati in questo progetto legge i delitti di saccheggi ai grandi supermercati, il delitto di barricata e il delitto di uso di bomba molotov. Diciamo che sono i tre delitti più importanti da considerare che possono essere indultati con questo progetto legge. E di cui che tanti a sentirlo... che a sentirlo ci viene quasi da festeggiare, cioè noi abbiamo appena ascoltato gli audio su Matteo Giordano, ci verrebbe da pensare che potrebbe uscire subito, perché metà degli anni che gli richiedono sono su questo, no? Sì, queste sono le richieste di questo progetto legge, che diciamo che è una richiesta, ma come dice te, in confronto alla realtà è proprio diverso secondo me. E quindi questi sono i tre, diciamo, i tre delitti che sono che hanno l'obiettivo e che siano considerati come indulto in questo progetto: i saccheggi a grandi supermercati, il delitto di barricata e l'uso di bomba molotov, no? E, che c'è anche qua si parla che non ci sono danni contro i piccoli impresari, perché Boric parlava giorni prima della sua elezione, che per dire che lui non indulterebbe in questo progetto legge quelli che hanno commesso delitto contro la Pymes sono le piccole imprese, no? Però già dei compagni e delle compagne che sono stati accusati di questo analisi di catasto viene detto che non ci sono danni contro Pymes, non ci sono danni contro persone civili e non ci sono danni contro i microimpresari. Allora, il 57% di queste 835 persone sono state formalizzate per il delitto di furto e luogo non abitato. Quando si parla di furto si parla di saccheggio. Quindi diciamo che il 57% dei nostri compagni e compagne sono accusate di questo delitto in questo momento. Di qui la maggior querela, che sarebbe il 93% della querela, è stata presentata dal Ministero dell'Interno e di Seguridad come principale querelante per questo delitto. Sotto l'articolo 6 della legge di sicurezza dell'interior dello Stato, che è quella legge che diciamo che sta premendo di più in questo momento, e di cui anche Boric sta un po' sorvolando dicendo che a questo punto si dovrebbe analizzare caso per caso. Ecco. Sapendo che gran parte dei nostri compagni della rivolta, quasi tutte, sono stati detenuti sotto questa legge, la legge di sicurezza interior dello Stato. Esatto, quindi diciamo che sotto questa legge di sicurezza dello Stato rientrano poi, per esempio, da cosa passa la sicurezza dello Stato? La lei dei controlli de armas, no? Sì, certo. Tutti e quindi, no? Prima vi dicevo, sentite bene i nomi di queste leggi, perché che succede? Che un conto, credo di aver capito che ragionino così, che mi sembra allucinante, mentre si chiede che vengano depenalizzate quelle che sono le armi del popolo per una rivolta, no? Che armi c'ha il popolo? E Molotov, che so, no? La bomba casareccia più famosa del genere umano, sì, forse le barricate, la situazione è diversa, ma in Cile sì, le barricate, no? E il cappuccio, se vestimo tutti uguali non ce se bevono, insomma, voglio dire, le cose elementari. Il popolo è misero nella sua lotta, non ha gli eserciti ma ce l'ha la propria rivolta. Nella misura in cui però queste accuse vengono mosse in quanto per esempio c'è la fabbricazione, la fabbricazione rientra nell'uso, sono quei cavilli, chiamasi cavilli, studiati chiaramente a pennello, perché poi uno, no, come Mattias, ad esempio, no? Perché appunto abbiamo parlato di lanciare le bombe, no, appunto il lancio è l'Eido Control the Armas. Il fatto che tu insieme a altre persone l'abbia costruita è l'Eido Control the Armas, che rientra nella lei de Sicurezza, e quindi a questo punto sta Molotov sembra che uno abbia veramente una bomba atomica, no? Quindi voglio dire, sebbene a sentirlo sembra che sia assolutamente una cosa che potrebbe effettivamente tirare fuori prigionieri e le prigioniere, poi ci rendiamo conto che ben altri poi sono le maschere che il potere ha messo, no, alla propria giustizia per riuscire a far rimanere queste persone in carcere. Io già quando ancora era fresca l'elezione di Boric, mi sembra che già qualcuno avesse detto che questo indulto comunque, no, dell'entourage, diciamo, giuridico di Boric, diceva che questo indulto non gli sembrava proprio una cosa ben fatta, no? Quindi già metteva le basi per analizzare caso per caso. Ma che vuol dire analizzare caso per caso in una rivolta di popolo? Che cosa significa? In una rivolta di popolo che poi, voglio dire, ci ha fatto capire benissimo quanto avesse chiaro chi erano i macro obiettivi, chi erano gli amici del capitale da colpire e chi erano invece i negozi che se danno tocca perché so da imporaccio che ci mantiene la famiglia. Questo mi sembra che proprio in quei giorni di piazza sia stato scandito con tutta la dignità di quel popolo, no? Cosa che forse invece non stiamo vedendo in questa nuova ondata di politica, che non mi sembra che rinfreschi molto però quello che è l'atteggiamento repressivo della giustizia. Sì, sì, no, come dice te, l'ho detto anche prima Mariano, no? Si sta a analizzare caso per caso, vorrei capire che cosa cambia, no? Qual è la pericolosità di lasciare in libertà questi compagni e queste compagne, no? Di andare a analizzare caso per caso se godono o non hanno diritto a questa libertà. Perché di quello che ho capito anche, che l'ho detto prima, il grande querelante è il Ministero dell'Interior di Sicurezza cileno, che sta applicando questa legge di sicurezza interior dello Stato contro quasi tutti e tutte quelli che hanno partecipato a queste manifestazioni, no? E ha applicato questa legge nonostante quando, per dire, gli stessi supermercati che hanno subito, per dire, i chiamati saccheggi, o gli stessi negozi non hanno presentato una denuncia come un'azione criminale, capito? Anche se non hanno fatto i supermercati, non hanno fatto i negozi, lo ha fatto comunque il Ministero di Ministero di Interno e di Sicurezza, prendendo parte in questa querela, no? Sì, sì, allora, esatto. Lì dove non è stato fatto dai privati e dagli impresari, è stato fatto dallo Stato. Poi ci sono casi dove, insomma, no, mi pare Nelson Sanguesa, quando parlavamo del suo caso, no, quanto si era prodigato per essere parte civile, il proprietario dell'immobile che, no, dove c'era, insomma, quindi anche diciamo che gli impresari hanno fatto la loro parte, come no. Lì dove invece qualcuno non l'ha fatta, chiaramente i procuratori tappano il buco, no, di chi non ha collaborato. Io volevo chiedere a Geraldine, ti volevo chiedere una cosa semplicemente per capire la situazione, perché abbiamo saputo rispetto a Boric. Io mi sento malissimo perché va e viene la comunicazione. Vediamo se lo possiamo risolvere da qua, non so se mi senti meglio ora. Ti volevo chiedere, perché io almeno l'ho saputo di Boric rispetto ad altri discorsi o argomenti, questa cosa di dire una cosa e dopo il contrario di tutto praticamente su giustamente gli indulti. Lui aveva parlato qualcosa prima, che ne so, di essere stato eletto presidente, e giustamente dopo, forse per una questione di cautela politica, di interessi, come dice Marta, no, gente almeno del suo entourage dicendo dobbiamo vedere, cioè c'è stato un cambio di opinione, ci sono state dichiarazioni, diciamo, controverse, contraddittorie rispetto a questo argomento da parte di Boric. Tu dici da parte di Boric? Sì. Boric, o almeno sì, diciamo del suo entourage, sì, appunto, di chi fa parte della sua piattaforma politica, cioè come riferimento. No, io di quello che ho visto in questi giorni, dopo che lui è stato eletto ufficialmente il prossimo presidente del Cile, e che lui aveva fatto dichiarazioni giorni prima della sua elezione dicendo che lui sicuramente, che prima lui ha detto che lui non interviene, non interverrà sul potere giudiziale cileno come prima cosa, perché loro sono un potere autonomo all'interno della giustizia cilena, che poi ha anche dichiarato che questa cosa che per lui sarebbe da revisare caso per caso, perché lui non è d'accordo per chi ha commesso delitto contro una pime, cosa che di qua del catasto dice che nessuno dei compagni e compagno ha attaccato una pime, che è una microimpresa, che lui anche non dava l'indulto a chi aveva commesso delitti incendiari, anche chi era sotto, chi era accusato sotto la legge di sicurezza interna dell'Stato, no? E qui è assurdo, perché la grande quantità dei nostri compagni, il 93%, sono accusati da questa legge. Quindi diciamo che dopo la lezione di Boris, di quello che io ho visto o ho letto o mi sono confrontato con qualche compagno o compagna in Cile no, non ha cambiato riguardo a quello che lui ha detto prima delle elezioni. Solo che la gente, sì, io capendo anche che io non sono quella che sono in carcere, e quindi non posso non rispettare tanti compagni e compagne che magari vedono una speranza su questo indulto, ma in questi giorni vedo che con fervore le manifestazioni per questo indulto, pressionando a Boris, che tra virgolette neanche ha assunto ancora il suo mandato, esatto. No, perché questo comincia il 10 di marzo, e invece tutti stanno appollando a Boris più che a Boris, che deve fare qualcosa e si deve compromettere con quello che lui ha detto. Quindi anche a me questo passaggio, diciamo in termini legali, che lui non può procedere fino al suo governo, mi sembra anche un po', non so come dirlo, un po' portato della disperazione, no? De che i familiari, le famiglie familiari continuano a chiedere e appellare a Boris insistentemente che qualcosa deve fare e che le promesse che aveva fatto le deve portare avanti, certo. Però io ti dico che il prima dell'elezione di Boris e dopo l'elezione di Boris, lui non ha cambiato parere. Però si è dimostrato, per quello che ci racconti, molto politico. Molto politico, no? È chiaro che a lui esprimersi sull'indulto gli sarebbe stato scomodo, insomma, ecco. Quantomeno, no? Sì, quantomeno. Sì, no, quello che voi dicevate prima sull'altra legge che sta premendo tantissimo contro i compagni e compagne in carcere è quella del controllo la legge di controllo delle armi. Esatto, capito? Questo. Quella è un'altra legge che sta veramente premendo tanto contro i compagni, perché di queste 825 persone, diciamo che il 9% è accusata di questo delitto. E solo la metà è stata accusata per questa legge, no? E un quarto di queste persone, di 835, sono finiti condannati per questa legge. Però da ricordare che in nessuno di questi casi esiste un danno all'integrità di persone civili. Quindi è una legge che comunque si sta utilizzando, ma sulla quale non ci sono prove concrete contro le compagne e i compagni che sono stati accusati sotto questa legge di controllo di armi, no? E l'altra cosa che volevo un po' menzionare durante tutta questa rivolta è che la misura cautelare più usata è stata il carcere preventivo. Sì, questo mi ricordo, insomma, c'è stata anche una bellissima analisi in uno dei bollettini che ci manda la coordinatore del 16 ottobre. C'era una bellissima analisi proprio dell'uso del carcere preventivo come comunque punizione, comunque anche chi poi uscirà assolto dalle accuse che si erano mosse si sarà fatto mediamente un anno di galera, minimo, credo, no? Di poter dire, dei 2 anni previsti dalla legge di carcere preventivo che si possono dare, no? Quindi io vengo accusata, no? Facciamo conto della metà delle accuse di quelle che abbiamo letto, allucinanti per Mattias, per esempio, vengo presa, messa in prigione e ci saranno 2 anni dove io potrò stare mentre verranno costruito poi l'impianto accusatorio verso di me e io, in per contro, quando parliamo veramente della violazione di uno stato di diritto, avrò parecchie difficoltà a costruire la mia difesa, no? Quindi sarò già rinchiuso, starò già pagando una privazione della libertà che poi nessuno mi risarcirà, che non sarà tempo che sappiamo può tornare indietro, anche se poi verrò riconosciuto innocente di quelle accuse, insomma. Quindi una punizione, diciamo, a prescindere è già stata data anche a chi è stato assolto, a tutti, no? A quasi tutti, non solo a questi 830, no? Sì, no, tu sei stata chiarissima nella spiegazione e la lettura che hai dato su questa misura cautelare che per me è gravissima e veramente infame, no? Perché come dice te, questa misura cautelare, come il carcere preventivo, la possono usare fino ai 2 anni, come Mattia Giordano, per Mattia Giordano, per dire, sono 15 mesi. 15 mesi e inizia adesso il suo processo, fatevi due conti. Infatti, rendersi conto è che veramente è un procedimento infame e molto perverso contro chi deve affrontare il carcere, no? E in questo senso in Cile, diciamo che uno degli strumenti più usato come misura cautelare e durante la rivolta il 62% delle persone sono state formalizzate principalmente con questa misura cautelare e il correlante principale ancora una volta è il Ministero dell'Interno e Sicurezza per i delitti che abbiamo menzionato prima, soprattutto il saccheggio e l'uso di bomba molotov e costruzione di barricate. E quindi il Ministero dell'Interior e Sicurezza si è correlato contro il 22% di queste persone che sono state formalizzate per i delitti che abbiamo menzionato prima, no? Che altro posso dire? L'altro delitto che è considerato durante la rivolta è il delitto di omicidio frustrato. E lo voglio menzionare anche perché, allora, in questo delitto di omicidio frustrato contro carabinieri o uniformati è stato applicato su 11 persone di questi 835 detenuti e detenute. E il caso più emblematico è una persona che è stata accusata e condannata, che è Giordano Santander, e lo voglio menzionare perché noi come rete ci siamo occupati di lui. Tanto. Sì, Giordano Santander è il caso più emblematico di accusa e di condanna per omicidio frustrato, in cui a lui se l'accusa di aver tentato l'omicidio di un poliziotto appunto della polizia di investigazione, che è un corpo a parte della polizia. Certo, sì, un tentato di omicidio frustrato, nel senso che lo accusano di aver intentato di averlo investito e assolutamente è l'unico testimone durante questo processo e che va a portare avanti questa accusa è lo stesso lo stesso poliziotto che tra l'altro in tribunale ha detto che lui non ha subito nessun tipo di danno fisico, che non ha assolutamente dovuto fare molto per difendersi da questo attacco, cioè lì la dinamica era che la PD stava, la polizia di investigazione stava facendo un posto di blocco e fermava la macchina con Jesus, con Giordano, insomma appunto con Giordano Santander e poi quelli che sono stati coimputati con lui, che poi hanno avuto altre, diciamo, altre vicende processuali, e che secondo lui Giordano avrebbe tentato di investirlo. Non solo le macchine non hanno avuto una collisione plausibile, nel senso che la collisione della macchina della PD era sopra lo sportello, insomma, a meno che la macchina di Giordano non sia un aeroplano, è difficile che l'avesse presa lì. Lo stesso poliziotto dice che lui ha dovuto fare solo un passo indietro, che non ha avuto danni fisici, ma ha dovuto fare alcune sedute di terapia psicologica per riprendersi dallo spavento. Queste sono state le sue testuali parole in aula e sono costate la condanna. Sì, sì, quello come dice te, che alla fine è stato condannato, diciamo, per un spavento. Lui è stato condannato per un spavento, perché lui dice che ha visto questo sguardo con l'intenzione di uccidere. Sì, appunto, capito? Insomma, tutte percezioni assolutamente aleatorie. Sì, sì, perché alla fine prove concrete non ci sono state, prove reali non ci sono state, e Jordano Santandero si trova a scontare 7 anni e 4 mesi. Esatto, per quindi, questo tentato di omicidio frustrato. Quindi ecco, diciamo che stiamo parlando di questo tipo di elementi, no? Quando l'avvocatessa di Mattias Giordano, ormai abbiamo imparato a chiamarlo così, quando l'avvocatessa di Mattias Giordano ci parla di quello che sarà un lavoro incredibile da fare per smontare perizie, smontare tantissimi, no? Abbiamo parlato di più di 60 testimoni, saranno possibilmente testimoni presi come plausibili perché hanno questo tipo di testimonianze, cioè delle percezioni assolutamente personali, assolutamente impalpabili, assolutamente improbabili, non so come dire, che però vengono poi sostenute dalle istituzioni giuridiche assolutamente come fatti. Sì, sì. E davanti a queste cose poi è difficile fare delle controperizie, delle contro delle controimpressioni, capito? Diventa problematico. Questi sono poi motivi per cui stiamo chiamando alla grande attenzione, soprattutto adesso, perché un po' passa il tempo e sappiamo che ricordarsi di chi è in carcere è difficile. E adesso sono anche i momenti dei processi più complicati, insomma, no? Quelli che probabilmente iniziano ora perché hanno richiesto anche più tempo di indagine, più tempo per mettere insieme cose. Sì, sì, anche perché come dice te, sicuramente sono gli ultimi casi che rimangono nella rivolta, che non sono ancora pochi, però sono anche i casi più emblematici. Se tu parli dell'inizio, come hai parlato all'inizio di Mattias Giordano, che ha 21 anni e che le vogliono fare pagare una condanna che è il doppio di quello che lui ha vissuto, è veramente aberrante, no? è disumano. E quindi noi, anche noi abbiamo pensato, parlando con alcuni compagni e compagne sulla situazione propria di Mattias Giordano, che chissà la intenzione del potere giudiziario cileno è fare il caso del Mattias Giordano il caso emblematico di cosa vuol dire la punizione, no? Che lui sia, diciamo, l'esempio purtroppo chiaro della punizione politica per aver sceso in piazza a protestare. E quindi anche la nostra preoccupazione, il nostro timore è questo, che Mattias Giordano sia come quel simbolo di che lo Stato ti fa pagare per quello che hai fatto con una condanna così disumana e assurda come quella che le vogliono dare di 34 anni, no? Per finire un po' il tema delle misure cautelari, volevo anche dire che l'uso del carcere preventivo in Cile non ha avuto ovviamente un criterio chiaro nella sua applicazione, poiché è stata come la prima delle misure cautelari applicate durante la rivolta, perché abbiamo avuto compagni e compagne, come hai detto tu prima, che si sono fatti comunque un anno e mezzo, 2 anni prima di iniziare un processo. E poi anche succede che esiste una tendenza non solo a mantenere la misura cautelare di carcere preventivo, sino anche di revocare tante volte quelle risoluzioni che sono state portate a termine, per dire che nonostante sia stata dopo una condanna, tante volte il potere giudiziario ha revocato quella sentenza. E chi era stato, per dire, assolto è stato nuovamente chiamato a affrontare un nuovo processo, o chi era a compiere non so, un arresto domiciliare in casa è dovuto a tornare a affrontare un nuovo processo perché le misure cautelari le sono state revocate. E per ultimo circa il 78% delle persone che sono state detenute durante la rivolta in Cile, parliamo di 835 in questo momento, che si trovano ancora in qualità di imputato o di imputata, e non sono state condannate né condannate come il caso anche di Mattias Giordano. che è ancora in attesa di un giudizio. Solo il 12% delle persone individuate di queste 835 che rimangono si trovano a scontare una condanna in prima istanza. Solamente il 12%, quindi vuol dire che tutte le altre sono ancora in attesa o sono ancora a non risolvere con un, neanche con un processo. Principalmente per furto di luogo non abitato con un 37%, per la legge di controllo di armi il 17%, per disordine pubblico il 16%, e per incendi è l'11%, quindi più o meno questo è il catasto che è uscito questa settimana sul progetto delle leggi di indulto generale che stanno portando avanti soprattutto le famiglie e i familiari dei prigionieri e le prigioniere politici della rivolta in Cile. Ecco qua, allora io intanto ti ringrazio te per averci veramente finalmente un po' così dipanato la nebbia su questa questione dell'indulto per quanto riguarda appunto prigionieri e prigionieri della rivolta cilena. A questo poi insomma è chiaro ci sarebbe tanto da parlare intorno, sappiamo che poi chi è stato arrestato durante quella rivolta ha trovato spesso in carcere compagni che stavano ancora scontando, no? Una resistenza a quei 30 anni d'oblio che sono il tempo passato dalla dittatura fino all'esplosione della rivolta, perché comunque c'è sempre stata della vivissima brace ardente sotto quel momento di calma un po' angosciosa, no? Veramente di digestione di un grosso trauma, mi viene un po' da leggerla così e quindi insomma non voglio dimenticare anche loro, li voglio aggiungere, non sono compresi in questi discorsi, loro dovranno entrare nella nuova giustizia cilena, chissà, no? È un discorso forse ancora più grande che un giorno casomai affronteremo, no? Sì, io appunto volevo solo aggiungere questo, che come hai detto te, ricordare che in Cile c'è una prigione politica storica precedente a questa della rivolta, no? Che Piñera continua a ribadire che in Cile non ci sono prigionieri politici. I prigionieri politici ci sono da sempre in Cile, purtroppo, ci sono quelli, come hai detto te, i prigionieri, le prigioniere anarchici, anarchiche, i prigionieri e le prigioniere di lunga condena, i prigionieri e prigioniere subversivi, e abbiamo anche noi, soprattutto, i prigionieri e le prigioniere politici e politiche mapuche, che in questo momento sono più di 60 nelle diverse carceri del Cile, no? E l'altra cosa che io ci tengo tanto, non perché io non ho la memoria corta come altri miei coi paesani cileni e coi paesani cilene, ricordare che Boric è lo stesso che quello che ha votato insieme a Piñera nel novembre 2020 l'accordo di pace, e Boric è lo stesso che ha firmato e accordato le leggi antibarricate, le leggi anticapuccia. Perché oggi io capendo la disperazione di tante famiglie che ha un figlio, una figlia nelle carceri cilene che sono state detenute e detenuti durante questa rivolta, mi sembra anche una incoerenza politica, perché in questi giorni ho visto scritto queste cose che stanno contestando queste leggi che sono state firmate da Boric, però ricordare che è stato lo stesso Boric a sostenerle e a firmarle, no? E quindi io ci tengo tanto a ricordare questo, perché mi sembra che da una parte contestiamo le politiche repressive e oppressive cilena, però allo stesso tempo stiamo chiedendo, diciamo, allo stesso carcelero che si dia una risposta su quello che lui, come Boric, ha firmato e ha condannato alle nostre compagne e ai nostri compagni della rivolta fino a oggi, perché abbiamo compagni già da più di 2 anni come prigioniero della rivolta, come prigioniero della rivolta nelle carceri cilene. Hai detto tu bene all'inizio che della giustizia noi, personalmente io, politicamente io, non mi fido, ma anche non ci arrendiamo, io non mi arrendo. e che nella nostra solidarietà anticarceraria è quella che ci unisce e che si deve continuare a unire, perché finché sia libertà noi continueremo a lottare. Niente, non saprei veramente che altro aggiungere, Geraldine. Io ti ringrazio, ti chiedo anche di salutare chi so che pazientemente non vuole essere citato, ma come rappresentante anche di tanti di questi prigionieri in un carcere ti sta aiutando a mettere insieme il lavoro che oggi ci hai un po' raccontato rispetto a appunto questa spiegazione, no, sull'indulto, su quanti riguarderebbe, quante. Quindi insomma moltiplica il nostro saluto, il nostro abbraccio, e noi insomma ci sentiamo prestissimo, spero anche ci vediamo. Grazie, grazie a te, grazie a Mariano, grazie a Radio Onda Rosa ancora una volta per tutto il sostegno alla rete internazionale in difesa del popolo Mapuche, che è sempre presente nella nostra solidarietà internazionalista, anticapitalista e anticarceraria. Quindi grazie mille, Marici Weu. Marici Weu, Geri, a presto. Ciao, ciao, grazie compa, ciao. Ciao. Dunque insomma un ringraziamento a Geraldine, intanto diamo anche il ben arrivato ad Eder, come sapete ricominciamo l'appuntamento su quello che è il processo di pace in generale, ma insomma stiamo stringendo al nostro terzo appuntamento su quello che appunto è stato il processo di pace colombiano, ma insomma un po' di musica per prendere fiato e poi torniamo insieme. Queridísimo, para la próxima canción tengo el placer de presentarles desde Chile a la señorita Mon Laferte. Cansado de buscar y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión, y en eso apareciste, todo cambió. Me fui acercando a vos.